Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di realtà virtuale. Dopo essere andata molto di moda un decennio fa, tutti ricordiamo film come Matrix oppure piattaforme come Second Life. Ecco, da allora poi di realtà virtuale si è parlato abbastanza poco, ma mentre la curiosità diminuiva, la tecnologia andava avanti sfornando schermi e proiettori in 3D, software per visualizzare oggetti tridimensionali, algoritmi per esempio per ricreare effetti ottici come la foschia o la diffusione della luce, soprattutto questo nel mondo dei videogiochi. Poi sono venuti fuori anche sistemi che permettono, come dire, di fotografare l'ambiente reale e tradurlo in mappe digitali. Ma soprattutto la tecnologia necessaria a simulazioni anche molto sofisticate non è più solo alla portata dei grandi laboratori di ricerca o dei centri di progettazione delle grandi multinazionali dell'auto o dell'avionica. E di tutto questo parliamo con il direttore del Centro Sviluppo Realtà Virtuale del Parco Scientifico Tecnologico Como Next, in provincia di Como naturalmente. Diamo il benvenuto a Stefano Poretta. Buonasera Poretta. Buonasera Melis. Dunque, lì in questo istituto CSRV realizzate contenuti 3D in real time rendering, si dice così. In pratica progettate degli ambienti virtuali immersivi con i quali si può interagire. Intanto ci aiuti a capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, perché a me pare di aver capito che lì avete una roba simile al ponte ologrammi dell'Enterprise per gli appassionati di Star Trek. Sì, diciamo che viene comunemente chiamata cave questo tipo di ambiente, ed è una stanza di 3 metri per 3 per 3 in cui si riesce, proiettando su 4 pareti, a entrare in un ambiente, sia esso una stanza chiusa, sia esso un posto totalmente aperto. Quindi si proiettano su queste pareti delle immagini che ricreano l'ambiente in cui si lavora. Esiste poi la possibilità di avere un effetto stereoscopico molto molto immersivo, che di fatto consente di guardare sotto un tavolo, guardare sotto una sedia, dà l'impressione effettivamente di appoggiarsi ad un tavolo o di sperimentare situazioni ergonomiche, come può essere la seduta, ma ovviamente non ci si siede, ma si capisce se un certo ambiente è funzionale a quello che deve fare, se è confortevole, per esempio, se dà senso di claustrofobia. Esattamente. Se da tutte queste, ecco, queste diciamo che rispetto al ponte ologrammi dell'Enterprise non si possono toccare gli ologrammi. Qui gli oggetti però, non si toccano. Diciamo, se ci si limita a muoversi in giro, ad andare in giro senza toccare nulla, l'effetto potrebbe essere più o meno lo stesso. Tra l'altro si può camminare naturalmente in questa stanza a 3 metri per 3, tra l'altro si indossano comunque degli occhialini, perché la tecnologia di proiezione più o meno credo sia quella del cinema 3D, no? Sì, è quella del cinema 3D. C'è una sola grossa differenza rispetto, ma che è fondamentale rispetto al cinema 3D, che è quella che si è tracciata all'interno della stanza. Cioè la mia posizione, i miei occhi e le mie mani, gli schermi sanno dove io sono e quindi cambiano l'immagine a seconda, e quindi io mi posso muovere all'interno della stanza. E cambia il punto, stanza, il punto di vista. E quando gli ambienti simulati sono troppo grandi, insomma un po' più di 3x3, tanto le dimensioni di una cella, lì come ci si muove? Ci si muove con un joystick, cioè per esempio in ambienti esterni, noi abbiamo simulato il parco qui di Lamasso. In ambiente esterno ci si muove a piedi, ma anche con questo joystick laddove la stanza finisce sostanzialmente. Ecco, senta, lei ha appena detto che avete simulato il parco, voi siete appunto in grado di simulare anche porzioni abbastanza ampie di realtà reale, non virtuale. Come avviene il rilevamento della realtà, del mondo che volete rappresentare? Diciamo, il modo più comodo è quello che parte dal CAD 3D, cioè se abbiamo a disposizione dei CAD 3D di un ambiente piuttosto che di un oggetto meccanico. Quindi i progetti al computer per i non addetti ai lavori, quindi voi gli date in pasto questa roba qua e lui ricrea l'ambiente. Ma se uno vuole ricreare un ambiente sconosciuto, come fa? Ecco, foto e poi con capacità anche manuali, diciamo, di disegno, si vanno a riprodurre quelli che vengono chiamati rendering. Insomma, per ora, diciamo, niente rilevamenti al laser o cose strane. Esiste anche la possibilità di avere la cosiddetta nuvola di punti, utilizzando degli scanner. Vengono importati, anche in questo caso c'è parecchio lavoro da fare per smagrire il più possibile questa mole di dati. Per poterla poi maneggiare in tempo reale. Esattamente. Dunque, quindi, voi lavorerete per l'Expo, c'è un progetto in cui siete coinvolti, il progetto SAFE, che sta per Safe and Secure Accessible Fair Ecosystem, finanziato dal MIUR all'interno, e quindi il Ministero dell'Università e della Ricerca, all'interno del bando dedicato alle Smart Cities. Che cosa farete voi? Quale sarà il vostro compito? Ma diciamo che la nostra attività sarà soprattutto quella di mettere in scena delle situazioni per capire se la loro ergonomicità è buona. Si possono fare degli esempi, una fermata di autobus, ecco, posta in una certa posizione, la posso simulare, renderla in realtà virtuale e poi farla sperimentare da chi dovrà poi utilizzare questa fermata di autobus, così come un giardino, così come vari scenari della città. Ecco, li si può progettare in precedenza, prendendo le idee degli architetti. L'idea è di evitare di fare un prototipo, addirittura un esperimento dal vivo, per verificare che qualcosa sia effettivamente funzionale. C'è anche una valutazione di tipo estetico. Sì, noi abbiamo realizzato, Common Next è un vecchissimo edificio, fino a 800, un cotonificio, che abbiamo ristrutturato per metà, adesso stiamo ristrutturando la seconda parte e vorremmo inserire in questa seconda parte un ponte in fibra di carbonio per dare una nota, diciamo, di moderno rispetto all'antico. Quindi abbiamo ricostruito, prima ancora di ristrutturarlo, abbiamo ristrutturato virtualmente questo secondo lotto di Common Next e abbiamo inserito questo ponte per valutarne la bellezza, quindi l'aspetto estetico, ma anche l'aspetto funzionale per le persone che ci debbano passare sopra, camminare sopra, se hanno dei problemi di questo tipo. Questa è un'applicazione tipicissima, diciamo, della realtà virtuale. Nel settore, diciamo così, dell'arredo urbano, questa è una possibilità molto, molto interessante. Dunque, Poretta, io intanto la ringrazio, noi ci fermiamo qui, ma continueremo settimana prossima a parlare, lunedì, di applicazioni della realtà virtuale, perché ne stanno arrivando moltissime per l'industria, anche quella medio-piccola. Grazie, Poretta. Grazie a lei, Miri. Appuntamento domani.